5 maggio. Siamo all'ospedale San Martino del Carso. Qui il dottore Giungaretti, innanzi ad un tavolo operatorio, deve condurre una difficile operazione. Per fare ciò ha bisogno dell'ausilio del collega Quasimodo Salvatore, che arriva trafelato. Devi scusarmi per il ritardo. Non sai che cosa ho incontuato. Che cosa? Il male di vivere. Oh, mica la prima volta, mi è capitato spesso. Un macello che non ti dico, c'era il rivo sozzato che gorgoglia, l'incattocciarsi della foglia rialza, il cavallo stramazzato. Terribile, ma mi è andata peggio. Io ieri un'intera nottata buttato vicino a un compagno massacrato, e questa mattina sto come d'autunno sugli alberi le foglie, però ho scritto lettere piene d'amore. Tieni, guarda. Oh, che belle! Boom, bam, spatapapram, velocità, boom, ratatata, ratatata, operazione. Oh, fate più piano! Ma perché al reparto futuristi devono far sempre così tanta confusione quando fanno un interventismo a cuore aperto? Cosa mi dici del paziente? È stato trafitto da un raggio di sole. Ah, è subito sera, come vuole il tempo. Viene a cena da me, ho degli ottimi ossi di seppia. Per dessert mia moglie ha preparato un dolce stil novo. Entra adesso una cavalla. Buongiorno, dottore. Buongiorno, è arrivata della posta per me? Alcune lettere da Jacopo Ortis. Ancora, spero siano le ultime. La cavalla se ne va. E chi è quel bel bocconcino? Lasciala perdere, è la mia nuova segretaria e contabile. La cavallina storna, non è il tuo genere. E poi non sei felicemente sposato. Petra ultimamente è strana. Certe volte basta che le si faccia una domanda e diventa subito volgare. Ieri le faccio: Petra, hai visto il mio stetoscopio? E lei: voi che ascoltate rime sparse il suono di quei sospiri onde io nutrivo al core il mio superiore giovanile uove quando era in parte al tuo uomo che io sono. Proprio l'apoteosi del volgare, eh? Ma non ti preoccupare, pensa positivista, sarà sicuramente una crisi passeggera. Questo weekend venite da me a fare una bella passeggiata con noi al Pineto, che ne dici? Oh, sarebbe proprio bello, ne avrei tanta voglia e farà di certo bene il mio rapporto con Petra. Fammi sentire un attimo il meteo per scrupolo. Piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre arse, piove sui piedirti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti, piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella. Sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o Ermione. One, two, point seven. Kiss Air Fan.